Buonasera a tutti, tutte le signore e tutti i signori, vi ringrazio di essere qui con noi, di partecipare a questa nostra iniziativa. La biblioteca provinciale, che da qualche settimana è operativa in fissa sede al piano terra con l'ingresso da via Marconi, continua ad organizzare delle iniziative, dibattiti, incontri con autori e autrici in questa sala. Quindi siamo contenti di poterci finalmente congiungere col Centro Trevi anche stabilmente durante il giorno con le nostre attività. E questa sera riprendiamo anche il discorso delle presentazioni di carattere storico e la collaborazione con la sezione ANPI di Bolzano. Questa sera c'è anche una rappresentanza, in particolare abbiamo con noi il Presidente Orfeo Donattini, che è qui in sala e che poi invito anche a raggiungerci per dire due parole in merito anche a questa nostra iniziativa comune. Ringrazio in particolare gli ospiti che abbiamo con noi questa sera. Come vedete appunto dalla slide qua dietro di me, è prevista appunto la presentazione di un lavoro molto certosino e complesso che è stato portato avanti in particolare da Lorenzo Gardumi, che lavora presso la Fondazione Museo Storico in Trento e coordinato dal professor Paolo Pezzino, che saluto e ringrazio qui con noi anche lui stasera, ed è docente all'Università di Pisa. Con l'ANPI abbiamo iniziato un percorso ancora tantissimi anni fa e si è man mano arricchito anche con una donazione di libri da parte dell'associazione quest'estate, che la biblioteca inizierà a prolungare appena saremo un po' più tranquilli e avremo risolto ancora qualche aspetto logistico legato al nostro trasloco. Ma nel frattempo continuiamo con le nostre appunto iniziative, con le attività, e vi invitiamo, cogliamo l'occasione per invitarvi anche alle prossime, che come sapete sono sempre di lunedì o di giovedì alle ore 18 in questa sala. Avete le cartoline a disposizione e soprattutto ecco a frequentare la biblioteca, che come dicevo prima è qua sotto con l'ingresso in via Marconi. Non aggiungo altro, lascio subito i nostri ospiti che ci introdurranno nell'argomento e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Grazie. Allora, Presidente, Presidente, se vuoi dire due parole. Ho annunciato. Solo per portare il saluto dell'ANPI antifascistici al terreno dell'Alto Adige Südtirol, vi ringrazio davvero di cuore per la vostra partecipazione a questo appuntamento, che è uno dei tanti incontri che abbiamo promosso in passato e abbiamo intenzione di promuovere anche in futuro, in stretta collaborazione davvero fattiva da sempre con la direttrice della PPI, Valeria Previta. È una collaborazione preziosa perché ci consente di mettere in sinergia tutte le nostre attività, tutti i nostri impegni e sforzi che reciprocamente abbiamo la possibilità di produrre. Sulla sinergia in ambito culturale all'interno della provincia di Bolzano, credo che ANPI abbia davvero scommesso molto. Abbiamo scommesso non solo con la Biblioteca Claudio Augusta, abbiamo scommesso anche con la sovrintendenza scolastica, e saluto con particolare parole il dirigente Andrea Felis, con il quale abbiamo aperto davvero una nuova stagione di collaborazione anche in questo campo, che permetterà una più articolata e dettagliata presenza di ANPI per la tutela e la promozione della memoria all'interno del tessuto scolastico. È un impegno anche questo molto importante, perché memoria, io lo vado ripetendo all'infinito fino alla nausea, non è una cosa vecchia e non è una cosa per vecchi. È un'attività di tutela e promozione culturale rivolta soprattutto alle giovani generazioni. E ringrazio la direttrice Trevisan per aver citato la donazione del nostro fondo librario. È un'occasione ulteriore per la città e per tutta la provincia, per tutti i cittadini che vorranno o hanno necessità di approfondire i temi dello resistenza anche in questa terra. E un'occasione in più perché il patrimonio è considerevole. Adesso non voglio svelare, lui peraltro l'ha già detto in qualche altra occasione, comunque questo fondo sarà presto con una doppia denominazione, fondo Ampi, librario Ampi, al quale si associerà anche il fondo dell'avvocato Arnaldo Lora, che è un bibliofilo straordinario, ha più di 500 volumi specifici dedicati a questo settore della memoria dell'Olocausto, che andranno quindi ad arricchire ulteriormente in maniera significativa, il salto di qualità sarà davvero straordinario, e sarà quindi un fondo librario che all'interno della Biblioteca Provinciale in Lingua Italiana sarà a disposizione di tutti, qualunque lingua parlino, perché è un fondo dove non si parla e non vi è scritto solo in lingua italiana, ma vi sono anche testimonianze in lingua tedesca e in altre lingue. Davvero una scommessa quindi culturale importantissima, e come è importante l'appuntamento di questa sera, io ringrazio sia gli alunni che il professor Pezzino, perché questo atlante delle stragi naziste e fasciste, con tutti i dati nazionali, è davvero un capitolo importantissimo che dà tutta la tragicità e tutta la dimensione enorme di quello che nel nostro paese è successo in quegli anni. Non voglio rubare ulteriore spazio, lascio sicuramente la parola a Cardumi e Pezzino, e vi ringrazio davvero di cuore e vi do appuntamento a tutti i nostri prossimi appuntamenti culturali che vi saranno nel corso dei prossimi mesi. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Questa sera presentiamo sia un volume uscito dal Mulino, curato dal sottoscritto con Gianluca Fulvetti, Zone di guerra, geografia di sangue, l'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, 1943-45, sia la ricerca che sta dietro il volume, e che è una ricerca che ha prodotto un censimento molto particolareggiato degli episodi di violenza su persone inermi da parte delle truppe di occupazione tedesche e degli uomini della Repubblica Sociale Italiana, una ricerca i cui esiti si possono anche consultare liberamente in un sito internet, straginazifasciste.it, nel quale è presente sia la banca dati che dove sono confluiti tutti i dati raccolti in questa ricerca, sia le singole schede monografiche, perché per ogni episodio è stata compilata una scheda monografica. Io oggi vi proietterò qualche dato complessivo sugli esiti di questa ricerca, e poi Lorenzo parlerà delle due province di Trento e Bolzano. Però forse è il caso di dire qualcosa prima su come siamo arrivati a questa ricerca, che è una ricerca promossa dall'AMPI nazionale, in particolare dal suo presidente Carlo Smuraglia, che si è molto speso per questa ricerca, e da quello che si chiamava Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, e ora si chiama Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che raccoglie, è il capofila della rete degli istituti della resistenza e dell'età contemporanea presenti in Italia. Questi sono i promotori, cioè sono le persone che hanno promosso la ricerca, che poi si è avvalsa di un comitato scientifico che io ho diretto e di 115 collaboratori su tutto il territorio nazionale. I finanziatori sono il governo della Repubblica Federale Tedesca. Voi sapete, ricorderete che qualche anno fa fra Italia e Germania si è aperto un contenzioso giudiziario perché alcuni tribunali italiani avevano condannato il governo della Repubblica Federale Tedesca a risarcire o alcuni internati militari italiani per il lavoro coatto al quale erano stati costretti o parenti di vittime appunto di episodi di violenza, di stragi. Tribunali italiani, tribunali sia militari che civili, ma con conferme della Cassazione. La Germania si era opposta a queste richieste e aveva dito la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, sostenendo che la sovranità dello Stato faceva sì che non potesse essere sottoposta alla giurisdizione di un altro Stato. La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha dato ragione al governo della Repubblica Federale Tedesca e quindi ha annullato l'efficacia dei provvedimenti di ingiunzione da parte dei tribunali italiani al governo tedesco a pagare. Tuttavia la Germania e l'Italia durante questo periodo di contenzioso giudiziario hanno messo in piedi una commissione di storici italo-tedeschi composta da 5 storici italiani e 5 storici tedeschi nominati dai rispettivi ministeri degli esteri, la quale ha lavorato sul periodo proprio della guerra con particolare riferimento alla vicenda degli internati militari italiani. Questa commissione nel 2014 ha chiuso con relazione finale, un rapporto che si può vedere tranquillamente su internet sia in lingua italiana che in lingua tedesca, basta che digitiate su Google Commissione Storica Italo-Tedesca e vi viene fuori il rapporto. Questo rapporto aveva alcune raccomandazioni per sviluppare ulteriormente il discorso. E il governo della Repubblica Federale Tedesca ha istituito un fondo sul vecchio bilancio, sul bilancio del Parlamento che si è appena concluso, che si chiamava Fondo per il Italo-Tedesco per il Futuro, col quale finanziare alcune di queste iniziative che erano state suggerite dalla Commissione Storica. Una di queste iniziative che è stata finanziata è stata proprio l'Atlante delle stragi naziste e fasciste. Naturalmente, sul quale, ripeto, si è molto speso il presidente dell'ANPI Smuraglia ed è grazie al suo impegno politico che questa ricerca è stata quella che io sappia ha ottenuto il finanziamento più cospicuo fra le altre iniziative che sono state finanziate. Naturalmente questo non significa che si debba approvare il rifiuto della Repubblica Federale Tedesca a corrispondere i risarcimenti individuali che erano stati richiesti e che erano stati istituiti, decisi dai tribunali italiani. È un'altra vicenda quella sulla quale ognuno può avere le opinioni che crede. Personalmente penso che il governo della Repubblica Federale Tedesca avrebbe fatto bene a corrispondere questi risarcimenti. Resta il fatto che questa forma di riparazione simbolica collettiva ci ha permesso di portare avanti una ricerca che era anni che si voleva completare, nel senso che vi erano stati negli ultimi 20 anni, la storiografia italiana si era occupata del tema, ma a livello più che altro locale o regionale. 15 anni fa era stata condotta una ricerca da parte dell'Università di Pisa, Napoli e Bologna sulle stragi in Toscana, Emilia-Romagna e Campania, ma ci mancava un quadro nazionale. Il quadro nazionale è quello che ora siamo in grado di proporre e di cui vi appunto mostrerò tra poco i dati generali. Ancora due due note sul i criteri di questa ricerca. Noi abbiamo censito la violenza, ho detto, sulle persone inermi. Originariamente si parlava di stragi di civili. Ci abbiamo ripensato perché ci siamo resi conto che molto spesso l'uccisione di civili, cioè di persone senza armi, che non avevano mai preso in bracciato le armi, avveniva contemporaneamente o in occasione dell'uccisione di partigiani che invece avevano fatto una scelta diversa, una scelta di resistenza armata, catturati e poi passati per le armi perché i tedeschi non, e neanche i fascisti repubblicani, riconoscevano loro lo stato di combattenti, per cui i partigiani che o si arrendevano o venivano catturati senza combattimento durante un rastrellamento, normalmente o subito, immediatamente o dopo qualche tempo venivano giustiziati. Ecco, abbiamo ritenuto di inserire anche questa categoria nel nostro censimento, ritenendo l'uccisione di persone inermi un crimine di guerra. Quindi non abbiamo considerato i partigiani caduti in combattimento, perché questa è un'altra storia che riguarda la guerra, appunto, e non i crimini di guerra. Abbiamo censito appunto la violenza sugli inermi. Abbiamo preso in considerazione anche gli episodi con una sola vittima, che nelle ricerche precedenti erano stati non considerati, perché ci è sembrato anche qui significativo. Molto spesso la ritirata di un reparto è stata accompagnata da una serie di violenze diffuse sul territorio, magari senza le dimensioni delle grandi stragi molto note alle quali tutti noi pensiamo quando pensiamo al fenomeno dello stragismo, Sant'Anna di Stazzema, Montesole, Marzabotto e così via, ma comunque storicamente significative. Quindi il censimento ha riguardato anche le uccisioni singole. Infine abbiamo deciso, originariamente si chiamava Atlante delle stragi nazifasciste, poi come vedrete è risultato nel corso della ricerca una certa autonomia anche dello stragismo fascista, nel senso che alcuni episodi abbastanza significativi per numero sono stati portati avanti esclusivamente da uomini e reparti della Repubblica Sociale Italiana, senza la partecipazione dei tedeschi, e quindi abbiamo deciso di chiamarlo Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia. Fatte queste premesse, passo a mostrarvi alcuni dati sintetici. I dati sono ricavati dalla banca dati, che è appunto liberamente consultabile sul sito. Queste sono alcune delle possibilità di interrogazione, ma vi sono poi dei filtri molto sofisticati che permettono di fare anche interrogazioni intrecciate ponendo domande di vario tipo. Questo è il dato complessivo al 15 settembre. Dico al 15 settembre perché una delle cose interessanti di questa banca dati è che è continuamente aggiornabile. Noi abbiamo, da quando abbiamo messo sul sito la banca dati, abbiamo ricevuto molte notizie, richieste di integrazione, richieste di correzione di dati che non sono risultati esatti e così via. Per cui continuiamo ad aggiornare con episodi che non erano stati censiti originariamente. E questa è la situazione al 15 settembre, cioè a 20 giorni fa. Gli episodi di violenza che hanno portato almeno alla morte di una persona sono stati 5.703 con circa 24.000 vittime. È un numero di vittime che supera la stima che veniva fatta finora, che riguardava solo i civili, poi vedremo i dati più disaggregati per categorie, e quindi già questo ci sembra un risultato interessante. Questo è l'andamento della cronologia delle uccisioni a livello nazionale. Come vedete vi è una ovvia punta del fenomeno nell'estate del 1944, ovvio perché è il periodo di massima sviluppo in Italia centrale della lotta partigiana, collegata a una situazione strategica molto delicata per i tedeschi che dopo la perdita di Roma si ritirano verso nord lungo quel baluardo difensivo che noi chiamiamo linea gotica e che però non era ancora approntato, per cui vi è anche una ritirata che nei primi giorni assomiglia quasi a una rotta, con un incalzare delle armate alleate, e il comandante di queste, Alexander, rivolge un appello ai patrioti che operano tra Roma e la linea dei Goti, invitandoli a una mobilitazione generale. Cosa che avviene, provocando naturalmente una dura risposta da parte tedesca, i quali si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà militare e reagiscono con grande durezza. Quindi il picco del fenomeno nell'estate del 44 era immaginabile proprio per questa situazione. Però vi sono alcune interessanti indicazioni. Innanzitutto, vedete, il terzo picco lo abbiamo nell'autunno del 43, cioè subito dopo l'occupazione tedesca, ed è un dato che riguarda soprattutto il mezzogiorno, in particolare la Campania. La Campania ha vissuto un periodo di occupazione molto limitato, ma molto duro, molto duro, con un atteggiamento duro da parte delle truppe tedesche, sia perché si sono trovate, abbiamo presentato la ricerca a Napoli ieri l'altro, e è venuta fuori appunto che questa reazione è dovuta a fenomeni di insorgenza armata, ad esempio di reparti militari acquartierati in Campania, e poi a collegamento con i civili che finora sono stati ignorati sia dalla storiografia sia dall'opinione pubblica. Si parla delle quattro giornate di Napoli, le si considerano un'insurrezione spontanea, la figura significativa è quella dello Scugnizzo. Questo ha messo in ombra invece che già in Campania, dopo un mese di occupazione, abbiamo un nucleo di resistenza armata, abbiamo un primi tentativi di organizzare la resistenza armata intorno a delle figure più significative, intorno ai militari e così via, come avviene nel resto d'Italia. Solo che nel resto d'Italia siamo lontani dalla linea del fronte. In Campania la linea del fronte è lì, e quindi la reazione tedesca è molto più forte. E quindi vedete 3.372 vittime già nell'inverno, nell'autunno del 1943. Poi si risale dalla primavera all'estate, si scende di nuovo, ma le cifre sono sempre significative, cioè anche con l'esaurirsi dell'offensiva alleata per lo sfondamento della linea gotica con l'autunno del 44, praticamente i primi di ottobre del 44 l'offensiva si ferma, si arena, sia una significativa presenza di episodi di violenza sui civili che si accompagna a grandi operazioni di rastrellamento antipartigiano alla quale i tedeschi fascisti repubblicani si dedicano nel corso dell'inverno 44-45. E poi abbiamo una ripresa nella primavera, proprio negli ultimi giorni, e questo è un dato molto significativo che interessa soprattutto queste zone, come vedremo e come ci dirà Lorenzo. Le regioni, appunto, Emilia-Romagna e Toscana sono le regioni che più hanno sofferto per questa violenza tedesca, però poi troviamo regioni lontane dalla linea del fronte, Piemonte e Veneto, dove però la guerra partigiana, la presenza partigiana è sempre stata costante dall'inizio alla fine, e dove quindi abbiamo un'attività repressiva tedesca molto sviluppata. E poi vedete la Campania con 1.406 vittime nel corso di poco più che un mese di occupazione. E questo è un altro dato interessante. Noi abbiamo censito gli episodi, dopodiché abbiamo esercitato un tentativo di analisi di tipo storiografico su questi episodi, che normalmente l'opinione pubblica considera tutti rappresaglie, intendendo per rappresaglia una reazione dell'occupante tedesco a qualche episodio guerra da parte dei partigiani, a atti di disobbedienza politica o di insorgenza politica. Il classico caso di rappresaglia è la rappresaglia appunto delle fosse ardeatine successiva all'azione partigiana di Via Rasella. Vedere sempre la violenza come una reazione a un gesto di guerra da parte partigiano, di disobbedienza da parte della società civile, di civili, in qualche misura è stata anche funzionale a un atteggiamento quasi giustificativo nei confronti di questa violenza, nel senso che reagivano a una violenza che subivano. Se non ci fossero stati i partigiani, se non ci fossero state le azioni partigiane, se i civili avessero accettato l'occupazione, non ci sarebbe stato questo tipo di violenza. È un ragionamento sbagliato logicamente, giuridicamente, perché ricordo che il diritto di rappresaglia che nel diritto internazionale non era stato codificato mai, ma che alcuni autori del tempo ritenevano legittimo a determinate condizioni, non prevedeva mai uccisioni indiscriminate di persone, ma soprattutto è una giustificazione che non trova riscontro storicamente, perché se vedete il numero di vittime cadute in rappresaglie, per rappresaglie intendiamo, ripeto, una reazione concreta e individuabile a un gesto, un atto di guerra o di subbedienza politica o di insorgenza politica, sono 6.563. Cioè sono una percentuale decisamente minoritaria rispetto al complesso delle vittime. Il maggior numero di vittime le troviamo in azioni di rastrellamento. Le azioni di rastrellamento che compivano i tedeschi, soprattutto fino all'inverno del 44-45, erano in realtà azioni contro la popolazione civile in zone nella quale i tedeschi sapevano, presupponevano la presenza di bande partigiane, e in queste azioni si andava a uccidere, a terrorizzare i civili per impedire che sostenessero, sia pur indirettamente, per esempio non denunciandoli, i partigiani. Le più grandi stragi commesse in Italia, Sant'Anna di Stazzema e Montesole Marzabotto, sono appunto operazioni di rastrellamento, nella quale però i tedeschi non vanno a cercare i partigiani dentro i boschi, sulle montagne, cosa pericolosa e anche di difficile attuazione, ma sterminano le località che sono al centro della lotta partigiana. E quindi non è un caso che lì troviamo il maggior numero di caduti. E poi vedete altre categorie, la ritirata è sempre, come ho detto, un momento delicato, abbiamo avuto molti episodi di violenza, per punitivi intendiamo quando appunto si punisce gruppi sociali o popolazione civile per atti di disobbedienza, desertificazione, cioè gli episodi di violenza avvenuti nel corso di bandi di svuotamento di interi territori, di solito a ridosso della linea del fronte, bandi che naturalmente la popolazione non poteva, alla quale la popolazione non poteva obbedire perché non sapeva dove andare semplicemente. Controllo del territorio sono le violenze più tipiche della guerra, cioè la presenza di un esercito su un territorio si accompagna sempre a qualche violenza sui civili di quel territorio, e poi le altre nel corso dell'armistizio. Violenza razziale, solo 119 vittime, perché noi qui abbiamo considerato solo la violenza commessa direttamente sul territorio dalle truppe tedesche, non abbiamo considerato la deportazione razziale, che è stato l'elemento più grave di violenza razziale nei confronti degli ebrei. Violenza di genere è molto sottostimata, cioè le uccisioni che avvengono nel corso di tentativi di stupro delle donne. Di solito questi tentativi, anche dopo la fine della guerra, non sono stati individuati, denunciati, perché veniva considerato disonorevole ammettere che vi era stata una violenza sulle donne. E infine 905 vittime, delle quali non siamo riusciti a individuare le modalità dell'uccisione, in che contesto è avvenuta l'uccisione. Ecco, questa è la stessa, gli stessi dati esposti dal punto di vista con una torta, potete vedere appunto che la rappresaglia rappresenta solo il 28% delle vittime e il 19% degli episodi. Vabbè. Questa è la matrice dei massacri, quello che vi dicevo prima. Come vedete, noi abbiamo un 22% di casi in cui gli unici autori sono fascisti, repubblicani, cioè quasi uno su quattro. È vero che a fronte di questo 22% di casi abbiamo solo un 13% di vittime, che dimostra come la violenza dei fascisti repubblicani fosse più mirata politicamente. Di solito era mirata verso antifascisti, verso renitenti alla leva, compresi i genitori, i parenti dei renitenti alla leva, verso cospiratori politici e così via. Però il dato è significativo perché dimostra un tentativo da parte dei fascisti repubblicani di attuare politiche repressive autonome rispetto a quelle tedesche, per riaffermare la presenza e in qualche misura la realtà dello Stato della Repubblica Sociale Italiana. Poi abbiamo un 15% di episodi e 20% di vittime nei quali i fascisti partecipano insieme ai tedeschi ai rastrellamenti, alle uccisioni e così via. Quindi, se consideriamo il 13% di esclusiva responsabilità fascista e il 20% di responsabilità nazifascista, abbiamo un 33% di vittime alla cui uccisione partecipano attivamente reparti della Repubblica Sociale. Mi sembra un dato significativo. Questa è la tipologia delle vittime. E allora, qui potete vedere che il 58% sono civili. Cosa intendiamo per civili qui? Perché anche gli antifascisti legati ai partigiani sono civili, cioè non sono militari. No? Qui per civili intendo vittime cadute casualmente, nel senso che appunto a Sant'Anna di Stazzema tutti quelli che abitavano a Sant'Anna, compresi uomini, donne e bambini, sono stati trucidati. Quindi persone uccise per essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, non per punirle di un qualche gesto di insubordinazione, di disobbedienza o di aperta resistenza. 32% partigiani catturati, disarmati e poi passati per le armi, oppure catturati nel corso di rastrellamento e uccisi anche senza che vi fosse stato un combattimento precedente. E poi trovate tutta una serie di categorie minori, alcune delle quali sono state punite per questi atti di disobbedienza: 2% di collaboratori dei partigiani, 1% antifascisti, 1% di militari, 1% di carabinieri, quei carabinieri che si opponevano alla trasformazione, all'inserimento nella Guardia Nazionale Repubblicana, 1% di religiosi che sono stati uccisi perché rimanevano con le loro comunità quando tutti erano scappati e hanno quindi condiviso la sorte delle comunità, 1% di renitenti alla leva e 1% di disertori, cioè di figure che invece avevano fatto qualcosa, si erano appunto, erano scappati nel caso dei disertori o non si erano presentati nel caso dei renitenti. E quindi insomma i civili che vengono uccisi rappresentano in pratica poco più della metà rispetto al numero complessivo delle vittime. Le vittime per fascia di età, come ci aspettavamo, il maggior numero di vittime sono uomini adulti tra 17 e 55 anni, e però poi abbiamo significative presenze di vittime o di età inferiore o di età superiore, di anziani, che sono normalmente quelli che vengono uccisi nelle grandi stragi indiscriminate: 86% maschi, 14% donne. Anche qui la percentuale femminile è quella presente soprattutto appunto nelle stragi indiscriminate. E qui le vittime per episodio, anche questo è un dato significativo: se ci sono in tutta Italia 15 episodi con più di 100 vittime, sono le grandi stragi nelle quali muoiono 3.375 persone, e 31 episodi con un numero di vittime da 50 a 99, cioè stragi comunque significative, vedete che il maggior numero di vittime, a parte le uccisioni singole, 2.901, il dato indubbiamente sottostimato, un censimento delle uccisioni singole per essere veramente preciso avrebbe bisogno di un lavoro certosino negli stati civili di tutti i comuni d'Italia, e la cosa è impossibile. Noi abbiamo censito le uccisioni singole di cui abbiamo trovato traccia o nelle lapidi o in qualche testo di storia locale e di cui in qualche misura già quindi si sapeva a livello locale, però è significativo che il numero maggiore di vittime siano caduti in episodi da 2 a 9, seguiti di quelli da 10 a 49, cioè episodi di piccola o media gravità che dimostrano una continuità e una cronicità del fenomeno stragista, con delle punte elevate, appunto le grandi stragi, ma con un sottofondo continuo che ha accompagnato l'intera ritirata dell'esercito tedesco in Italia. Ecco, io ho finito sulla presentazione dei dati generali, lascio ora la parola a Lorenzo che vi parlerà invece della situazione delle due province di Bolzano e di Trento. Dovresti chiudere e dovrebbe venire. Scusa? Se chiudi, poi ti vengono gli altri due file. Mm-hmm. Pigia pure il PPTX perché lo regge. Uno, due, scusa. Quello senza la mano. Quello se no, quello col numero. Quello col numero. Questa ricerca, perché ho iniziato a occuparmi di stragi per il Trentino nel 2005, quando arrivò anche a Trento la documentazione che era stata conservata fino a quel momento a Roma, nel famoso palazzo tribunale, palazzo Civi, tribunale di Italia. E non ero il primo, sicuramente conoscete Giuseppe Pantozzi, che forse è stato il primo in Trentino a occuparsi di stragi di civili e di violenze compiute soprattutto in Val di Fiemme. Io ho continuato su quel solco, ho avuto il piacere di conoscere il professor Pezzino in quegli anni e quindi di continuare con lui questo rapporto di amicizia, ma anche di lavoro e di ricerca. E quando appunto c'è stata l'occasione di partecipare alla compilazione di questo volume, che è un volume comunque che si fonda sul contributo degli istituti della resistenza nazionale ovviamente, e quindi sui ricercatori che gli istituti hanno messo a disposizione, è chiaro che anche la fondazione, in quanto membro della rete degli istituti della resistenza, ha accettato ovviamente di partecipare nella mia persona. La zona d'operazione delle Prealpi, e quindi le province di Bolzano, Trento e Belluno, rappresentano una particolarità all'interno del sistema di occupazione nazista all'indomani del settembre del 43, una particolarità rispetto al resto del paese, che è chiaramente occupato dai tedeschi con la collaborazione della Repubblica Sociale, ma anche rispetto all'altra zona d'occupazione, è il litorale adriatico, quindi, che già dal settembre del 43 vive, sperimenta una violenza degli occupanti sicuramente superiore alla nostra, chiamiamola così, zona d'operazione. Ma anche all'interno della stessa zona d'operazione dell'Alpenvorland, le dinamiche in cui si produce la violenza nazista, e parlerò esclusivamente di violenza nazista per quanto riguarda le nostre tre province, è diversa da provincia a provincia. Belluno vive, Veneto, vive un movimento di resistenza molto più ricco, molto più articolato, molto più attivo in quel periodo, soprattutto a cavallo dell'estate del 44, ma anche successivamente, e quindi la repressione tedesca è molto più forte, si contano 370 vittime tra partigiani e civili circa, compiute dai tedeschi nel bellunese. Un altro esempio è la deportazione di 1600 bellunesi nel corso del 44 nel campo di concentramento di Bolzano. E quindi c'è un atteggiamento diverso, perché la popolazione è molto più ostile all'occupazione, agli occupanti, e quindi la strategia tedesca è molto più reattiva nei confronti chiaramente del movimento di resistenza e anche dei civili che vengono coinvolti loro malgrado. Come accade in altre località, in altre zone d'Italia, il rapporto tra civili e partigiani non è sempre l'insegna della collaborazione, soprattutto dopo i grandi rastrellamenti, le operazioni che i tedeschi mettono in campo, e quindi un rapporto molto, molto variabile. Trento e Bolzano sono assolutamente diverse da Belluno, e qui la violenza rispetto a Belluno sarà minore, perché Hofer, come sapete tutti, nuovo padrone, capo supremo della Ben Forland nel biennio 43-45 adotta una tattica, una strategia politica e anche secondariamente militare di controllo moderato di questi territori, perché fondamentalmente la linea del Brennero è necessaria al rifornimento delle truppe tedesche che operano in Italia meridionale, e quindi ha bisogno che questo territorio sia tranquillo da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale. Quindi adotta determinate modalità di intervento in nome di pragmatica, non dobbiamo pensare alle autorità naziste come dei feroci barbari assassini, sono anche quello, ma non sono sicuramente degli sciocchi, e quindi quando hanno la possibilità di attuare politiche che possono facilitare lo sfruttamento o semplicemente favorire l'acquiescenza delle popolazioni, si prodigano su questo versante. E quindi dal Trentino e dall'Alto Adige vietano la costituzione del partito fascista, mantengono ad esempio in Trentino i carabinieri, mentre in tutto il resto d'Italia le vicende dei carabinieri sono un po' segnate anche dal loro essere guardati storto sia dai fascisti che dai tedeschi, in quanto corpo tradizionalmente vicino alla monarchia e quindi non meritevole di alcuna fiducia. Verranno deportati infatti in Germania. In Trentino vengono raccolti in questo gruppo autonomo dei carabinieri, quindi mantengono una sorta di funzione agli scopi tedeschi. Sempre in Trentino si crea offre appunto alla collaborazione di Adolfo De Bertolini, liberale, antifascista, una figura nota alla comunità locale, che deve fare da mediazione tra tedeschi e popolazione civile, e soprattutto attua una politica che mira a separare da un punto di vista spirituale il Trentino dal resto della comunità nazionale, quindi di fatto riprendono quello che è un po' un mito, se vogliamo, ma insomma insistono sul carattere di piccola patria del Trentino, riprendendo anche quello che era stato il passato recente del Trentino. Pensiamo che Trentino e Alto Adige sono uniti all'Italia dal 19, quindi da relativamente poco tempo, e anche da quella sorta di nostalgia che una parte della comunità trentina sentiva verso il passato asburgico, no? Una buona amministrazione asburgica. Non a caso molti elementi anche amministrativi, non solo militari, ma delle autorità naziste sono rappresentate da esponenti di origine tirolese piuttosto che comunque austriaca. In Alto Adige la situazione è ancora diversa. Alto Adige ha un passato recente, come sapete benissimo voi, negli anni 30, insomma, abbastanza difficile, insomma, una comunità divisa per motivi etnici, per motivi sociali, economici. Dopo la popolazione c'erano state le opzioni, quindi le due dittature avevano imposto anche una scelta che aveva frammentato la comunità, soprattutto la comunità di lingua tedesca. Ed è su queste fratture pregresse degli anni 30 che i tedeschi fanno appello quando poi prendono si possessano di questi territori. Quindi una politica attenta a non mettere in crisi l'importanza della linea del Brennero e attenta ad utilizzare una strategia militare nei confronti delle popolazioni che non porti a terrorizzarle di fatto. Questi sono i dati relativi al Trentino, ma le stesse cose potremmo dire in parte anche per il Bellunese, la strategia che adottano i comandi di polizia, soprattutto anche militari, ma principalmente di polizia, quindi Gestapo soprattutto, è quella di estirpare o comunque colpire principalmente il movimento di resistenza. Come tutti voi sapete, il 28 giugno del 1944, tra Trento, Rovereto, Riva del Garda e altre località del Basso Trentino, i nazisti intervengono e decapitano di fatto il movimento di resistenza che si era raccolto intorno alla figura del conte Gian Antonio Manci. È una strategia preventiva, è una strategia che trova riscontro ad esempio anche nel bellunese. Il 28 giugno in Trentino, 10 giorni prima, il 19 a Belluno, tra Feltre e Belluno, i tedeschi uccidono il tenente colonnello Zancanaro, che era diciamo il leader del nascente movimento di resistenza bellunese. Ma mentre nel bellunese questa operazione di fatto radicalizza il confronto tra occupanti e occupati, portando anche a un aumento qualitativo della resistenza armata e quantitativo della resistenza armata bellunese, in Trentino di fatto la resistenza subisce una notevole battuta d'arresto. Ciò non vuol dire che non ci siano operazioni di, ai danni del movimento partigiano, però comunque si tratta comunque di una attività che prende esclusivamente o per lo più di mira il movimento di resistenza politico e militare, e soprattutto tende a partire dall'agosto fino al settembre ottobre del 44 a impermeabilizzare, se così si può dire, soprattutto la fascia di confine tra Trentino e Veneto, dove la resistenza è molto più forte, sta prendendo, non dico il sopravvento, ma è molto attiva, e le autorità appunto tedesche mirano a rendere comunque l'Alpen Vorland tranquillo. Quindi tutta la serie di operazioni che parte dall'operazione Belvedere dell'agosto del 44 e che coinvolge Malgazzonte, l'episodio classico, no? Che coinvolge soprattutto partigiani, i caduti sono 17, sono 14 partigiani e 3 civili che vengono fucilati durante il rastrellamento, prosegue poi con tutta una serie di operazioni che si concludono con l'operazione Piave e quindi il massacro del Grappa. Una diciamo fase successiva sarà quella dei primi di ottobre del 44, con la settimana di lotta alle bande indetta da Kesselring proprio in quel periodo. E perché? Allora, questo aumento della repressione tedesca in quel periodo è dovuto chiaramente allo sviluppo dell'attivismo e delle forze partigiane. Secondariamente, perché non volevano mettere in pericolo, in crisi, il sistema di comunicazione che legava l'esercito combattente a sud con la Germania, e quindi voleva mantenere pulite le vie di un'eventuale ritirata. Nel giugno del 44 i tedeschi si ritirano da Roma, sembra che possano addirittura proseguire fino ben oltre la pianura padana. E quindi è di importanza fondamentale mantenere aperte le vie eventuali di fuga. Un'altra ragione è la costruzione, che è iniziata nella tarda primavera del 44, ma che prosegue celermente nel corso dell'estate, di quella che avrebbe dovuto essere un'eventuale ultima linea di difesa nel caso in cui la linea gotica non avesse tenuto. La linea blu è sostanzialmente una linea che dallo Stelvio, o comunque dal confine svizzero, avrebbe attraversato le due zone di operazione, quindi non solo l'Alpen Vorland ma anche il litorale adriatico, e rappresentava appunto l'estrema propaggine difensiva dei tedeschi in Italia. Pulire o ripulire le retrovie in questo periodo ha questo valore, ha questo senso. Ci sono chiaramente dei picchi, qua noi vediamo appunto il Trentino con gli 11 caduti del 28 giugno, i 22 che sono appunto il risultato dei rastrellamenti dell'agosto, per lo più dell'agosto del 44, gli 11 poi successivi dell'autunno 44 che coincidono con la settimana di lotta alle bande dell'ottobre, come vi dicevo prima, e poi sostanzialmente c'è un equilibrio. Comunque la linea indica che la violenza tedesca non è paragonabile ad altri territori, e c'è il picco, ma del picco ne parleremo poi, perché è un picco che riguarda anche Bolzano. Vedete, rispetto al caso nazionale È evidente che il Trentino e l'Alto Adige hanno subito violenze superiori rispetto alla, al totale dell'occupazione, al periodo totale dell'occupazione nazista, soprattutto nella fase finale. La ritirata conta 29 episodi e 84 vittime. Complessivamente i caduti civili e partigiani per il Trentino sono poco meno di 160. La maggior parte, come vi ripeto, però concentrata appunto nelle fasi conclusive. Qui ci sono le modalità e tipologie del massacro. Sì, per il Trentino, rispetto agli altri, alle altre province, non si può parlare relativamente di violenza fascista. Sono pochi i reparti presenti nella provincia, sono per lo più reparti addestrati nel controspionaggio e quindi nella, nelle operazioni di intelligence, oppure come quella sezione della banda Carità che opera a Rovereto. Si tratta sostanzialmente di manovalanza utilizzata dai tedeschi per estorcere ai prigionieri politici e ai partigiani informazioni utili per debellare poi in un secondo momento la rete resistenziale. Episodi legati a violenze fasciste sono ridotte, sono assolutamente casuali. L'unico caso che adesso mi viene in mente è quello di un ufficiale della divisione Monterosa che dall'addestramento in Germania passa dal Trentino e uccide un civile, un soggetto insomma, che aveva invitato nei pressi di Ala, di Avio, aveva invitato i soldati della divisione a disertare. Sì, rispetto al quadro nazionale qui possiamo notare una sorta di equilibrio tra le varie categorie che ritornano anche in Trentino, una sorta di equilibrio tra le vittime partigiane e i civili. Diciamo che i civili, la maggior parte delle vittime civili avviene sostanzialmente nella fase conclusiva, nella fase della ritirata. Qui in fascia d'età abbiamo la conferma del livello nazionale, quindi di una preminenza della violenza nazista nei confronti degli adulti, e lo stesso si può dire per quella relativa alle vittime per genere. Le donne sono poco coinvolte e lo saranno soprattutto nelle fasi finali, fortunatamente, ed è appunto la conferma che la violenza nazista si scaglia soprattutto contro gli uomini, coloro che potenzialmente quindi possono portare delle armi. Qui, come vedete, abbiamo forse il maggior numero di vittime non per stragi di grande consistenza che si verificano per lo più alla fine della guerra, ma appunto intorno alle decine di persone, con 24 episodi, però 88 caduti. Adesso vi faccio vedere Bolzano, che forse vi interessa di più, ma insomma, per dire che le modalità della violenza nazista si differenziano a seconda del territorio in cui i tedeschi operano e controllano. A Bolzano abbiamo 13 episodi e 105 vittime, e non sono poche, insomma. Comunque è, come sappiamo, una provincia particolare, ed è una violenza che riguarda per lo più cittadini di lingua italiana. la repressione o comunque l'oppressione nei confronti della comunità di lingua tedesca c'è, e molti finiranno nel campo di Bolzano, come anche trentini, ma non raggiungeremo mai le cifre dei bellunesi. È comunque una volontà di repressiva che mira a punire comportamenti come la deserzione, no? Deserzione è un fenomeno che si sviluppa molto in Alto Adige, come in altre zone chiaramente, ma come fenomeno, comunque come comportamento che i tedeschi valutano chiaramente come come contro di loro, la renitenza e la deserzione sono fenomeni evidenti che puniscono non con uccisione ma appunto con la prigione piuttosto che la deportazione. Questo è appunto l'andamento della violenza nazista in Alto Adige, e vedete che anche qui ci sono più o meno le stesse corrispondenze, no? E quindi l'estate del 44 e la fine della guerra, quindi la primavera del 45, aprile-maggio 45. Abbiamo 33 caduti nell'estate, luglio-agosto del 44, e sono per lo più, ma voi magari lo conoscete, lo sapete benissimo, insomma, corrispondono ai 23 fucilati della caserma del Mignone, che sulle cui informazioni ha lavorato Carla Giacomozzi, no? Anni fa, e poi 7 disertori della Repubblica Sociale che si trovavano però a Brunico al servizio dei tedeschi, che appunto disertano dal loro servizio, vengono riacciuffati e vengono fucilati. Quindi quella cifra lì può rispondere a una sorta di volontà punitiva dei tedeschi nei confronti di questi individui, vuoi appunto i 23 agenti che erano stati catturati, agenti erano tutti italiani, quindi militari per lo più, che erano stati paracadutati dal governo del Regno del Sud nel nord Italia per operare appunto nelle retrovie tedesche, vengono condotti a Bolzano, arrivano nel campo e non riescono neanche a trascorrere 2 o 3 giorni, che vengono quasi praticamente fucilati quasi subito. Com'è? Rimasero parecchio? Purtroppo rimangono parecchio. Ah sì, mi sembrava di ricordare diversamente. Comunque insomma quella cifra insomma corrisponde a quegli episodi. Come per il Trentino, vedete, i rastrellamenti sono quasi inesistenti e coincidono appunto con i 7 disertori della Repubblica Sociale, un episodio e 7 vittime, e si concentrano sui 4 episodi che poi portano il numero di vittime ad alzarsi con 58. Anche qua abbiamo la conferma insomma della quasi inesistenza di una mano fascista e di un'assoluta presenza invece fortemente appunto dei tedeschi e dei nazisti. Anche qui abbiamo gli stessi dati quasi, che mostrano una sorta di equilibrio tra civili e partigiani come vittime, per molto simile alla situazione trentina. I militari vengono per lo più uccisi, a parte appunto i 23 del Mignone, ma negli istanti successivi all'8 settembre. Vittime per fascia d'età, assoluta corrispondenza con il dato diciamo della zona d'operazione, ma anche del panorama nazionale. Femminile, una violenza appunto prettamente contro gli uomini. Qui abbiamo un'inversione di tendenza, nel senso che le vittime principali si hanno nei 3 episodi che contraddistinguono di fatto la fine della guerra in provincia, a Bolzano e Merano soprattutto e a Bressanone. Ecco, direi che Trento e Bolzano, o gli effetti dell'occupazione tedesca si hanno su Trento e Bolzano dal punto di vista della violenza, soprattutto nelle fasi conclusive della guerra, quindi tra aprile e maggio del 45. Rispetto all'altra provincia, che chiaramente faceva parte della Pelforland, è una violenza superiore nelle fasi finali del conflitto, intendo. E questo indica chiaramente che la maggior parte degli episodi di violenza stragistici avvenuti nelle due province avviene nel momento più delicato per l'esercito tedesco in quel momento, e quindi la ritirata. Abbiamo chiaramente uccisioni che avvengono in concomitanza con azioni condotte contro partigiani che tendono a disarmare le truppe tedesche in ritirata. Siamo alla fine della guerra, quindi ormai c'è poco da fare per i soldati del Terzo Reich, ma è chiaramente la guerra un meccanismo che non si ferma facilmente, come intendono i politici, ma riproduce i suoi effetti ben al di là, insomma, delle conclusioni. Noi diciamo il 25 aprile, ma in realtà sappiamo che la guerra non finisce il 25 aprile, diciamo l'8 maggio, ma la guerra non finisce l'8 maggio. E in Trentino gli ultimi avvenimenti violenti si svolgono il 4 maggio, quando il 2 è stata data notizia dell'armistizio delle forze tedesche in Italia, non chiaramente in tutta Europa. E ciò che avviene appunto in queste due province è legato essenzialmente a quello. Molti episodi che accadono in Trentino avvengono perché sono compiuti da reparti che non hanno mai operato in questi territori, che non conoscono la storia precedente e quindi la storia anche politica della Pelforland, e quindi mettono in pratica pratiche e modalità di violenza apprese nei mesi, negli anni precedenti. Molte uccisioni di civili, perché appunto è in questa fase che le vittime tra i civili aumentano, sono dovute appunto all'esperienza precedente, all'attraversamento ad esempio di villaggi, di paesi, e le colonne tedesche sparano verso porte e finestre perché temono che da quei luoghi possano sparare dei partigiani, possono nascondersi dei partigiani, quindi preventivamente fanno fuoco sui borghi, diciamo, che attraversano. Sono uccisioni che avvengono anche per altri motivi, legati a non solo all'abitudine alla violenza. C'è anche la voglia di vendicarsi verso coloro, non tanto che si sono opposti con le armi o meno al Terzo Reich, ma che festeggiano la fine della guerra. Bolzano, la provincia di Bolzano ha chiaramente, come voi sapete benissimo, le vittime principali nelle fasi, come vi ripeto, conclusive e coincidenti con gli episodi noti legati agli scontri avvenuti nel capoluogo, a Merano piuttosto che a Lasa o in altre località. Ecco. Prego. Sono sbastato al contrario. Lo so. Lo so. Erano missioni alleate, volontari italiani che magari avevano attraversato tutto il territorio e poi sono stati riportati dagli alleati per i sopravvissuti con l'aereo, con i MAS, a raggiungere la resistenza del dettaglio. Quelli erano missioni. A Brunico, la diserzione dalla caserma di Brunico di tutti i giovani italiani dell'aviazione, che erano in divisa da lavoro della Luftwaffe, è di circa 100 persone. È molto giovane, che io chiederò a Mimmo Francinelli di fare un supplemento al suo volume di disertori, perché questo è un episodio grande, non piccolo. Da Brunico fuggono con un tenente, che fuggono la domenica un centinaio di persone. 8 di questi, 4 si dormono davanti alla stazione e 4 vanno verso Cortina per fare, e questi 7 di questi 8 che vengono presi vengono fucilati all'alba del, del 6 luglio 1944, ma è un episodio molto più grande. Una delle differenze che da Trentino io sollevo rispetto a Bolzano è che a Bolzano non c'erano i carabinieri, a Trentino c'erano i carabinieri, di quanto uno collaborava anche con i partigiani. A Bolzano c'era un gruppo di guardie civili, la SOT, e anche a Trento c'era un corpo che si chiamava Corpo di Sicurezza Trentino. Mentre la SOT non ha mai partecipato a nessuna anti-azione, anti-guerriglia, anti-partigiana, il CST ha fatto azioni anti-guerriglia, e lei forse se ne è dimenticato, perché no, i veloci interventi avvenuti nel Belunese e altro è stata fatta proprio dal Corpo di Spedizione Trentino. Corpo di Spedizione Trentino che ha agito anche in Val di Fiebbe, in vicino, catturando uno dei nostri partigiani che lei conoscerà, Fagioli, lo conosce? Certo. È stato catturato dal CST Trentino che per salvarsi si è gettato da una finestra. Tutto quello che lei mi dice io lo impagino qui dentro, ma anche lei deve verificare queste differenze tra Bolzano e Trento, soprattutto sì, in relazione al corpo. Chiaro, no, chiaro, adesso ho il tempo di enucleare tutte le... Ma chiaro che non c'erano i fascisti, c'era il CST, va bene. Il CST è anche una forma di, se vogliamo, controllo della popolazione giovane da parte di Hofer, perché è chiaro che non poteva permettersi di lasciare a casa tutti quei... E poi anche uno strumento, come dicevo anche prima, della ripresa di questa affinità tra Trentini e passato asburgico, no? Come i Kaiserjäger avevano combattuto Trentini, avevano combattuto nella Grande Guerra, così i giovani del CST avrebbero continuato la tradizione dei nonni o dei padri, insomma. Nel fare i complimenti, perché io credo che sia un'opera destinata, come dire, a consegnare alla memoria di un paese intero, ma non solo, visto che siamo ormai in Europa, come dire, una memoria importantissima, e soprattutto anche la difficoltà, cioè ad esempio quando scorrevate le tipologie, lì molto spesso veramente il confine è, certo, è molto incerto, perché rastrellamento, rappresaglia, accidenti, occorre proprio andare a scavare e forse certe volte a prendere così, a valutare, ponderare e secondo qualche indizio andare da una parte. No, io l'unica cosa legato alle vittime dell'armistizio, no? Come mai, cioè, nel senso, probabilmente anche lì avete dovuto scegliere delle tipologie, no? Cioè uccisione di militari catturati inermi, quindi non in comportamento. Forse su quei dati li trovo bassi, cioè nel senso che a Bolzano ci sono stati moltissimi casi di militari che fuggivano in civile e poi venivano catturati dalla soda anche che li fucilava sul posto, eccetera. Quindi forse lì c'è ancora, no, da aggiungere qualche cosa. Sì, no, non ne ho parlato, ma insomma io ho qui la lista dell'anagrafe di Bolzano che mi segnala 48 militari deceduti il 9 settembre del 43. E i nominativi ci sono, di due siamo sicuri che sono stati uccisi non in combattimento, e però degli altri non ho alcuna certezza, nel senso non so se sono stati uccisi in combattimento piuttosto che appunto durante la fuga o dopo, subito dopo il disarmo. Però i nomi ci sono, però non ho delle indicazioni più precise. Quello che dice lei sulle tipologie è molto giusto. Le tipologie servono perché nel momento in cui si inseriscono i dati in una banca dati bisogna tipologizzare, e per tipologizzare bisogna scegliere una tipologia per ogni episodio, ma ci sono episodi in cui a volte è veramente difficile distinguere, e purtroppo questo è lo strumento. Poi è chiaro che nell'analisi più critica, quella che trovate nel volume, il discorso viene complicato, insomma. E così anche le vittime dell'armistizio, sì, non le abbiamo considerate quelle che non sono morte in combattimento, e a volte non è facile capire quelle che sono invece state uccise o disarmate oppure perché in fuga. Sì, anche perché volevo scusare una cosa, appunto questi sono dati aggregati, ma non danno conto di tutti quegli elementi, aspetti che invece online e quindi sull'Atlante possiamo trovare, ad esempio i responsabili, almeno per il Trentino per la maggior parte non li sappiamo, perché sono... però ci sono, insomma, no? Un corpo piuttosto che un battaglione, piuttosto che un reparto, i responsabili, anche nominativi, a volte spesso ritornano, quindi online è più facile avere altre e tante altre più informazioni. Faccio subito una premessa, io non sono uno storico, quindi le informazioni ci dovrebbero essere gravi in decisione. Allora, io credo che si debba ringraziare Franco Giustolisi per aver pubblicato il famoso Armato della Vergogna, no? E soprattutto aver anche individuato quei magistrati che hanno avuto il coraggio di portare avanti anche ed individuare le responsabilità dei tedeschi e dei nazisti di queste stragi. Magistrati che chiaramente sono molto diversi rispetto a quei magistrati di Venezia che hanno assolto il cretino lì scarpa dalla disertazione, eccetera. Così come io ne approfitto per fare i complimenti al professor Pezzino per il libro di Massacro, quello su Montesole. Io sono stato a Montesole proprio con quel libro, proprio devo dire che è un libro che proprio quel testo si libro quello che lui definisce credo l'estrellamento di eliminazione. Sì, porta l'eliminazione. Da Buda Rasa che fecero i nazisti là intorno. Ecco, la prima questione che voglio porre è la seguente: è possibile anche in futuro fare un'antologia delle stragi nazifasciste all'estero? Soprattutto per esempio quello che combinavano i nazifascisti sui Balcani, la Cefalonia, consiglio per chi non l'abbia letto, a proposito di Cefalonia, un bellissimo libro edito da Gasparri Meyer, la strage di Cefalonia, che credo sia uno dei migliori libri che siano in circolazione sull'argomento. Quindi è una prima questione che pongo. Seconda questione, là il concetto della individuazione personale, della responsabilità personale, individuazione personale. Io credo che questo Atlante, ho avuto modo di vederlo online, debba anche come dire, ringraziare i dottori, debbano ringraziare anche coloro i quali sono stati colpiti direttamente da queste vicende. Penso per esempio a Conca della Campagna, alla Crescella di Gasparo, la quale per tanti anni ha visto il papà morto in quella strage, per tanti anni si è battuta perché appunto venissero fuori i responsabili di quella strage, cioè di Russia e Mauriche, se non sbaglio. E anzi, a proposito di questo, faccio i complimenti agli autori di questa trama, perché finalmente si riesce a capire che anche nel sud ci sono delle stragi nazifasciste, penso a una raccolta della campagna, penso a Vieste, io sono preso da Lecce, eccetera. Quindi finalmente vengono fuori tutte queste vicende. Quindi, e poi c'è il discorso sulla responsabilità personale, che nell'Atlante vengono individuati i responsabili di queste stragi. Un'ultima cosa, professor Pezzino, a proposito della responsabilità civile di questo, più per completare quello che diceva lei, ricordo la famosa sentenza ultima della 238 del 2014 che individua la responsabilità della Germania finalmente e quindi dalla Germania il risarcimento. Ora, il fatto che la Repubblica Federale abbia finanziato, non so con quale somma, ma mi dicono un po' girando su internet con una somma molto modesta. 4 milioni di euro, non per la mia ricerca, per tutto il fondo italo-tedesco in 4 anni. C'è il rischio, qui le tolgo una questione diretta, che questo finanziamento sia una sorta di spettacolo di beneficenza. Vabbè, gli abbiamo dato una certa somma, finanzieremo altre iniziative storiche però poi in realtà la questione della responsabilità nei confronti degli eredi che hanno eredi però in termini impropri viene messa da parte, viene marginalizzata. Lì su questo tema preciso, cos'è un pizza? Grazie. Bene, grazie delle domande molto pertinenti. Innanzitutto sulle stragi degli italiani, le stragi fatte all'estero, e questo dovrebbe essere il prossimo passo. Non è un passo facile, perché per fare un censimento del genere bisogna lavorare sulle fonti locali, e quindi certo noi sappiamo qualcosa, per esempio dell'occupazione italiana in Grecia, conosciamo alcuni episodi più eclatanti, ma un lavoro che prende in considerazione i Balcani, io per gli italiani direi anche le stragi pre-guerra, le stragi coloniali, Libia, Etiopia e così via, deve ancora esserci. E come dicevo, questo Atlante non ha in questo momento punti di confronto in altri paesi europei. Speriamo di riuscirci. Io mi accontenterei, peraltro, se cominciassimo a fare un lavoro più approfondito sulle stragi dell'esercito regio prima dell'8 settembre del 43. Quello forse lo potremmo fare anche partendo dalle fonti italiane, se le fonti militari ci venissero aperte, cosa che ancora non è, perché i militari, nonostante siano militari di una Repubblica Democratica e non più militari dell'esercito regio sotto il fascismo, sono molto reticenti su questo punto, quasi che fare chiarezza su quello che è stato l'atteggiamento delle truppe italiane in situazioni in cui si sono venute a confrontare con una resistenza simile a quella che in Italia abbiamo avuto contro i tedeschi, e questa reticenza è incomprensibile. Non è che l'onore dell'esercito di oggi dipenda da quello che hanno fatto o non hanno fatto i militari di allora. Quindi intanto auspichiamo questa cosa. Su quello che dice lei, uno può dare, ripeto, tutti i giudizi che si vuole. È indubbio che la Repubblica Federale Tedesca in questo modo ha voluto dimostrare la sua condivisione, diciamo, di una colpa con la Germania nazista, se non altro perché appunto è l'erede di quello Stato. È anche indubbio che il tema delle riparazioni individuali è un tema particolarmente delicato in tutto il mondo, in quanto che di solito il tema delle riparazioni viene concluso dopo la fine della guerra con qualche forma di accordo tra gli stati, lo stato che diciamo ha provocato i danni e lo stato che li ha subiti, e un simile accordo c'era stato anche tra Italia e Germania. Dal punto di vista giuridico il diritto internazionale non è d'accordo su questa linea, tant'è che appunto la Corte Internazionale dell'Aia ha a grande maggioranza, con qualche significativa astensione, ma a grande maggioranza, ha ritenuto che la Germania non fosse dovuta, non dovesse ottemperare all'ingiunzione dei tribunali italiani. Dal punto di vista, diciamo, dell'atteggiamento tedesco, io dico sì, il pericolo che lei dice indubbiamente c'è, però faccio notare che dopo la deliberazione della Corte Internazionale dell'Aia, la Germania poteva anche uscirsene dicendo beh, avevamo ragione e quindi stop. Il fatto che abbia optato per forme di riparazioni collettive, certo la cifra di 4 milioni di euro è inferiore di molto a quella che la Germania avrebbe dovuto sborsare qualora fossero stati riconosciuti i diritti agli indennizzi agli indennizzi individuali, per esempio, di tutti gli ex internati militari ancora viventi. Però resta il fatto che è stato un gesto politico di un qualche significato, secondo me. Quindi possiamo pure continuare a criticare la Germania per non aver voluto riconoscere questa forma di riparazione. Però apro una parentesi. Se andiamo su questa linea, nessuno Stato ne esce indenne, soprattutto non usciamo indenni noi, perché forse avrete letto sul giornale una notiziola di una comunità spagnola che ha chiesto agli italiani l'indennizzo per i bombardamenti che gli italiani hanno fatto nel corso della guerra civile spagnola. Se vogliamo ampliare ancora il campo a prospettive, siccome oggi la storiografia considera i bombardamenti a tappeto crimini di guerra, sono bombardamenti terroristici che nella volontà dichiarata politica dei governanti avevano il compito di terrorizzare la popolazione, costringendo così l'altro Stato alla resa. Cosa che poi non è avvenuta, perché la Germania, nonostante sia stata messa a tappeto, non si è arresa. Il Giappone, nonostante tutti pensano alle due bombe atomiche, ma in realtà i bombardamenti più gravi sono stati quelli su Tokyo, giorni e giorni interi col napalm, non si è arreso e quindi così non è avvenuto. Allora, se noi cominciamo, fra l'altro sui bombardamenti c'è una documentazione che ci permette quasi sempre di sapere quale reparto, quali aerei hanno bombardato quella città quel giorno e così via. E se i cittadini che hanno avuto vittime, parenti dei bombardamenti cominciassero a richiedere l'indennizzo per questa forma di crimine? Insomma, si deve pur capire che durante una guerra mondiale succedono crimini di tutti i generi, e anche in una guerra, e anche chi combatte dalla parte giusta, come combattevano dalla parte giusta gli inglesi e gli americani, compiono poi atti che invece possono essere considerati criminali. Quindi, insomma, si pone un problema, perché noi ora pensiamo, ripeto, alla Germania, ma pensiamo al caso italiano, e quindi non è un caso che il governo italiano, quando la Germania ha reagito alle ordinanze dei tribunali italiani, sia stato molto debole nel difendere il diritto dei tribunali italiani di sanzionare il governo tedesco e costringerlo alle riparazioni individuali, perché temeva ovviamente di aprire la stura poi a una richiesta di riparazioni nei confronti dell'Italia. E per finire, si può dire che questo tipo di atteggiamento della Germania siano forme di riparazioni simboliche? A parte che le forme di riparazioni simboliche vengono oggi considerate comunque importanti da quel filone di studi che si chiama relativo alla giustizia di transizione, soprattutto la richiesta di scuse ufficiali, solenni, da parte di governi di un paese nei confronti delle vittime del passato, vengono considerate un elemento importante. Però resta il fatto che, per esempio, per tornare all'Italia, non c'è un governante italiano che si sia scusato per l'occupazione italiana dei Balcani o della Grecia. Cioè, almeno la Germania è o dell'Etiopia o della Libia, almeno la Germania ha avuto dei presidenti della Repubblica che sono venuti a Marzabotto e l'ultimo a Sant'Anna di Stazzema, l'ultimo gesto pubblico di Napolitano I, diciamo, della prima presidenza di Napolitano, a chiedere perdono per quello che i suoi connazionali aveva fatto. Noi a Cefalonia ci ricordiamo di andarci per esaltare la resistenza della divisione Acqui, ma un governante italiano che si è andato in Grecia a chiedere perdono per l'occupazione italiana della Grecia, io non lo devo ancora vedere, e mi aspetterei di vederlo prima di morire. No, per carità. Dico solo che tutta la polemica la costretta parte, come dice un signor Luigi Ferrini. Sì, lo so. Lo so, lo so. Ridotto il segreto prima di una situazione di scalino, mette insieme queste vicende in condizioni di scalino con i bombardamenti. Non è la stessa cosa, sì. Poi ripeto, c'è la sentenza da 2008 del 14 della Corte Costituzionale che riguarda completamente addirittura la legge italiana che ha eliminato la possibilità di quella del 2013, quindi il dibattito, come si diceva una volta. No, ma quello che lei dice è giustissimo, per carità. Dopo la sentenza dell'AIA, l'Italia aveva accettato quella sentenza con una legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima. E è una tendenza del diritto umanitario che io approvo, che spero si possa sviluppare. Il punto è che quella sentenza della Corte Costituzionale è del tutto inefficace nei confronti della Repubblica Federale Tedesca, perché è una testimonianza, diciamo. Quindi su questo io sono d'accordissimo. Luigi Ferrini, conosco tutta la storia, e dico solo che però il tema dei crimini è un tema che ci potrebbe portare lontano nella riflessione.